24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Epifani, avete già messo la vittoria? Vi siete già ripresi da questa botta? Questa botta di culo, intendo. Il dato di queste elezioni, comunque, è che, Epifani, da nord a sud, meno italiani vanno a votare, più vince il PD. Epifani, voi dovreste lavorare molto sull'astensione. Cioè... Vabbè, no, ma... questo è Crozza ieri, insomma, con Guglielmo Epifani, lì, segretario del PD. Buongiorno, care italiane, cari italiani, cari stranieri, care straniere, cari tutti. Questo è 24 mattino, siamo in diretta fino alle 9. E c'è Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè, che due giorni fa ha compiuto gli anni, poi non lo dico più, ieri, due giorni fa hai compiuto gli anni, ieri hai compiuto gli anni, due giorni fa era auguri per il nostro alpino, e basta, lo facevo solo per la nostra Paola Saluzzi, che... Paola Saluzzi, vuoi dire prima dell'apertura del Parlamento, vuoi fare gli auguri post datati all'alpino? Assolutamente. Eccolo qui. Buon non compleanno al grande alpino Peter Bescapè. Benissimo, questa la taglia, la tiene sempre con sé. Questo è il Parlamento. Buongiorno. Come sempre. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori. Strozzate col caffè della Minetti. Noi non lo vogliamo dalla Minetti. Brutto cretino d'un Milan. Eccolo lì. Paola Saluzzi, che ridi, che c'è? Questa, buongiorno a tutti. Io scusa, batto nervosamente la penna qua, batto, senti. Tappo. Questa signora è infastidita del caffè, vabbè, strozza del caffè. Era gelosa di te, perché dice sempre di trattare troppo caffè della Minetti, perché... E quindi era una delle tue fans. Ma poi cosa vuol dire? Non so, chiediamolo a Luca Dini, il direttore di Vanity Fair. Luca Dini, buongiorno, la saggezza. Buongiorno. Cosa vuol dire secondo te, direttore, quando dice hai goduto anche te dei suoi favori? Questa non l'ho capita, quella frase della signora. Bevuto molto il caffè, dai. Ah, e appunto, certo, offre il caffè a tutti, che non deve offrire il caffè anche al conduttore, no? Ho capito. Scusa, visto che lo stipendio lo paghiamo noi. Caffè, non più, però adesso non più. Gliel'abbiamo pagato. Allora, attenzione, perché Luca Dini mi risulta. Sai dov'è Paola Saluzzi? Sai dove si trova in questo momento? Abbiamo il nostro uomo che ci può dare delle anticipazioni sulla decisione che attende tutta l'Europa. È a Berlino. Londra! Londra? È a Berlino. In Germania, la Corte Costituzionale deve decidere se è costituzionale. A Karlsruhe sono riuniti lì per capire se lo scudo antispread europeo è un qualcosa che è il primo giorno di udienza ieri. Luca Dini, dacci qualcosa almeno del clima. Se ne parla in Germania? Sì, Draghi è andato addirittura in TV clamorosamente a fare un'intervista. No, se ne parla, sì, è vero. Però non sono accampato lì davanti. Non sei a Karlsruhe a capire la Corte Costituzionale. No. Cosa deciderà? No, però questa è... Però la... ma è la notizia... Pensa che io avevo detto a Londra perché pensavo al figlio di William e Kate. Appunto. No, vabbè. L'Europa, secondo Paola Saluzzi, è appesa al figlio, alla nascita del figlio di William. Ma no, era una cosa così un po' allegra. Sì, certo, vabbè. No, vabbè. A parte gli scherzi, no, ma qua, per carità, il Sole, ma tutti i giornali ne parlano, perché in base a questo si decide un po' i destini anche dell'economia europea. Insomma, ma in Germania, visto che ogni tanto, Luca, quando ci sei ti chiedo il polso, dalla gente che pensa di noi, secondo te? Che siamo veramente gli sfigati, o noi come altri paesi gli sfigati d'Europa che si devono portare appresso? Ma non credo che sia proprio così, più che altro non capiscono la nostra situazione politica, il nostro governo, continuano a chiedermi tutti di Berlusconi, ma c'è ancora, non c'è, sempre queste cose. Sempre Berlusconi. Sì, penso che siano anche consapevoli del fatto che il loro benessere dipende anche quello, anche dalla nostra situazione, no? Esatto. Non credo siano inconsapevoli di questo. No, no, ma è chiaro, cioè adesso al di là di tutto, no Paola, se facciamo le riforme, se mai facciamo le riforme, questo no. Decreto del fare, che per ora è come sempre il decreto del dire... Il fatto di pesare in Europa non può che portarci valore, poi che a questo peso noi dobbiamo far corrispondere, come dire, il contrappeso e quindi l'altrettanta, si spera, ripresa di un moderato benessere anche nel nostro paese, non v'è dubbio. Poi per i dubbi dei tedeschi più dubbiosi abbiamo Mario Draghi alla BCE, che ricordo si chiama Mario de nome, Draghi de cognome ed è italiano, insomma, sì, ecco, sì, questo, sì. Giusto per fare come sempre la persona che tiene l'Europa unita. No, certo, che peraltro, ripeto, è andato no, in TV a fare un'intervista, sì, che è una cosa rarissima ovviamente per il Presidente della Banca Centrale Europea. È andato, secondo me ha agito di contropiede, parlo chi tanto di calcio ne sa, e insomma ha preso la palla prima, anche perché non è andato a dire cose astruse, è andato a dire cose inaspettate perché fosse proprio lui a dirle, ma giuste, corrette, ecco, un po' un cavillo... Cavilloso, questo che sta andando in scena a Karlsruhe. Certo, il clima in Europa, per capire quello che è, secondo me lo dà la notizia che proviene dalla Grecia, che io prima ho twittato. Oh, ragazzi, ma in Grecia, Luca Dini, sai cosa hanno combinato? Hanno nottetempo chiuso la TV di Stato, cioè hanno detto basta. Gli sprechi, 2.800 persone a casa, dicendo tra tre mesi forse ci sarà una nuova TV, non più statale, ma una TV, diciamo una new company. E questo è il clima, cioè capisci Luca, dal giorno alla notte, ieri a mezzanotte il governo ha detto la TV di Stato non va più in onda da adesso, clic, e hanno spento. Questa è la dimostrazione che anche le cose che sembra che non possano succedere a volte succedono. Esatto. A volte succede. 2.800 persone a casa, adesso ovviamente protestano i sindacati, cercheranno di portare avanti le trasmissioni in maniera autonoma. TV e radio, certo. Nel frattempo Libero ha messo questa notizia in parallelo col fatto che in Italia invece, sai cosa ha fatto Paola Saluzzi, la presidente della RAI, almeno no. Secondo Libero? Ha fatto assumere il suo autista. Questo c'è scritto sul Libero, eh? Andremo a capire come, perché, sì. non è vietato, insomma. No, non è vietato, però insomma, paese che vai, RAI che trovi, ecco, uno potrebbe, o TV di Stato che trovi. Per fortuna noi siamo in grado di assumere persone, ecco, la metto in maniera positiva così, penso con angoscia a quelle persone che stamattina si sono sentite dire grazie, il tuo lavoro non serve più, che poi 2.800 persone sono quante? Sono 3.000? Immaginando forse oggi da ognuno di noi non corrisponde una famiglia, però sì. Speriamo di essere sempre in grado di assumere noi, ecco, questa sarebbe già una grande notizia. Questo sì, certo che fa veramente specie pensare che da un giorno alla notte abbiano spento il segnale della TV di Stato, della TV e radio, per dire qual è la situazione. La grinta che prende a certi paesi la notte, no? Di notte la polizia turca fa pulizia. Nottetempo, insomma, c'è un po' di clima agitato dappertutto, quello che sta accadendo in Turchia è triste dirle una frase fatta, ma è ai confini della realtà, insomma, e noi gli puntiamo il dito e gli diciamo queste cose non si fanno, no, non si fanno, bisognerebbe andarglielo a dire in maniera un po' più robusta, insomma. Non si fa, vabbè. Al signor Erdogan. Eh no, ma è chiaro. Allora, vogliamo parlare di politica italiana. Oh, Luca Dini, ti mancava, di verità. Tu sei andato a Berlino. Parliamo di Turchia. No, perché ieri Paola Saluzzi ha fatto lo scoop. Dobbiamo dirlo. Io non c'ero. Non c'eri. Il giorno che... Paola Saluzzi in Sky TG24 pomeriggio. Sono loro che hanno intervistato la senatrice, quella... Ti è rigiunta la voce, Luca Dini, che c'è una senatrice del Movimento 5 Stelle che ha detto che Beppe Grillo è il problema. E Beppe Grillo ha reagito in maniera pacata. Insomma, ha detto... Se ne vada fuori dalle palle. Insomma, questo è... Tecnicamente sì, abbastanza pacata, insomma. Non è ancora pronta la garrota, no Paola Saluzzi, la garrota no. Ma devo dirvi che grazie Alessandro della sottolineatura, ovviamente mentre andava in onda questa senatrice proseguiva, tra l'altro lei con voce molto pacata ma inesorabile a dire la propria cosa, che insomma si è liberi di dire, grazie a Dio, quello che si vuole, c'era lo stupore in studio perché diciamo tutti che succederà? Sapevate che era come il condannato a morte che diceva le ultime parole? Ma non smetteva perché portava avanti una propria istanza e vediamo adesso questo che cosa... Cosa comporta? Abbastanza chiaro. La vogliamo intanto sentire la senatrice Gambaro che ha detto il problema è Grillo, è proprio così, testuale. Quindi secondo lei in questo momento il problema del movimento è per certi versi Beppe Grillo? Direi di sì, perché noi il lavoro lo stiamo facendo, stiamo cercando di lavoriamo tantissimo e anche questo non viene percepito all'esterno. E invece di incoraggiarci, lui scrivendo questi post ci mette in cattiva luce anche al di fuori del movimento. Allora, la senatrice Gambaro, Paola Saluzzi, qui bisogna capire che succederà adesso. Noi adesso era il microfono ovviamente del nostro Andrea Bonini dal Senato e adesso è chiaro che tutta la massima attenzione è rivolta ad una persona che ha detto, ha parlato a nome proprio, ma a nome a quanto pare anche di altri. Ora, è evidente che qualcosa oggi andrà ad accadere, insomma, che le discussioni calme e pacate non ci sono come in nessuna famiglia e noi siamo lì pronti a tutti noi ovviamente che facciamo informazione a sentire e a registrare che cosa accadrà. No, anche perché oggi fa una serie di interviste ancora a dire non mi tiro indietro, non smentisco nulla. Era abbastanza prevedibile e previsto, Luca Dini, oggi si parla di 40 senatori tra i deputati che potrebbero uscire, sì, ogni giorno è un po' alterna all'otto, sul Movimento 5 Stelle continua a dire 25 dissidenti, 20 dissidenti, 30 dissidenti, 40 dissidenti, è un po' il destino del Movimento 5 Stelle anche per il modo in cui è condotto, secondo te, di perdere qualcuno? Non so per stare... se sia... Sì, perdere qualcuno sicuramente, non so se sia un destino permanente, è sicuramente un passaggio. Devo dire che dopo i risultati di domenica e lunedì era inevitabile che scoppiasse qualcosa. Sì, era inevitabile, effettivamente qualcosa diciamo come una pentola di fagioli, no? Bolliva sotto traccia. 24 mattino. Caro Milan, so che è un momento difficile per Alemanno, Fiorito, Polverini, che hanno dato tanto impegno, serietà, onestà, soprattutto onestà, per risolvere i problemi del Lazio e di Roma. Vorrei mandare così il mio pensiero di sostegno. Mortacci loro. Altro che bella ciao, qui ci vuole il duce! Ciao Milan, sono Antonio da Novara. Volevo dire una cosa molto semplice. Grillini, ciao! Ciao Grillini! Ciao, è finita! Finita già così! Ciao! Preferirei che chiudessi questa rubrica perché parla solo gente che parla di forconi, fucili e al primo batter d'ali le corse arrivano fino a New York. Ciao Alessandro! Ma perché accanirsi tanto verso il sindaco di Ercolano? Questo trovare per forza il colpevole, il sindaco che non era lì in quel momento. Ma scusa Alessandro, voi giornalisti non c'entrate proprio niente con questa rabbia che tutti abbiamo? Guardatevi un po' dentro, Ciao. Buongiorno Alessandro, sono veramente disgustata. Vedo tutta questa allegria del PD, ma che cosa ha fatto il PD in tutti questi anni? Tutto questo mi fa schifo e ce ne vuole, perché a 88 anni, dopo aver visto un De Gasperi, dopo aver visto un Togliatti, dopo aver visto tutti gli intrallazzi di tutti questi anni, io veramente non so più a che cosa pensare. Alessandro, sei una grande, grande, grande creatura. Vorrei che tu fossi mio nipote. Guarda un po'. Paola Saluzzi, sono nipote onorario di questa signora di 88 anni. Che dobbiamo fare? Sono contento, sì. però ha ragione. Ma chi come ha ragione? Ma addirittura ha ragione. Sei una splendida creatura. Bravo, mi piace, la rimetteremo. No, ecco, quelli che dicono i giornalisti, io odio le generalizzazioni. Voi giornalisti, ma ve la volete prendere con Luca Dini? Eccolo qua, il direttore di Ventifer che risponde di quello che volete prendervela con Paola Saluzzi, come ha fatto il nostro toscano, prendetevela con Paola Saluzzi. Ma che cosa vuol dire le generalizzazioni? Voi giornalisti siete, ce la prendiamo, Paola, contro gli avvocati, dai, scagliati. Tutto quello che perché questo è il metodo, lo dico a questo ascoltatore, sì. Seppure il più, forse il più diretto, il più naturale, il più spontaneo, mettiamola così, è più sbagliato, perché vuol dire chiudere le persone dentro i cassetti. È comodissimo, apro il cassetto degli avvocati quando me la devo prendere con gli avvocati, quello dei medici, giornalisti, tu con i tassisti, si sa, ce l'hai con i tassisti. Milan, tu metti in giro voci false e tendenziose, ma io, se c'è una, io continuo tassisti, a dirlo, continuo a dirlo, prima o poi qualche tassista te la farà pagare. Ma direttore Dini, mi appello a voi e vi do del voi, così la cosa riesce ancora più. Ma insomma, direttore, devi fare un'intervista a Palazzo Saluzzi su Ventifer per rimediare. Io amo i tassisti. No, Luca Dini, non so se hai sentito la segreteria, perché so che la linea è caduta. Cioè, questi che voi giornalisti non c'entrate nulla. Ma cosa c'entra generalizzare così? No, ripeto. Non l'ho sentita, però qui da Karlsruhe vi dico questo. Ho letto adesso le reazioni di Grillo quando lui di nuovo parla di infanzia. È veramente fastidiosa questa cosa. Cioè, non è possibile che i giornalisti vadano bene soltanto quando scrivono quello che pare a qualcuno. Sì. È un'indecenza. Ma poi sì, queste metterlo in categoria, ma non è una difesa, perché poi dico difendete la categoria. Ma no, ma ognuno risponde per se stesso con un nome e un cognome. Ma che vuol dire voi giornalisti? Si firmano apposta. Ma infatti, uno, se io dico una cavolata qui, sono io con il mio nome, il mio cognome che le rispondo. Punto. E basta. Vabbè, finito lo sfogo. Allora, uno prende la prima pagina. Luca Dini, lo fate apposta, l'uomo ideale, dai, chi è l'uomo ideale al mondo, Paola Saluzzi, dai, su. Oh, avrei una lunga lista, ma no, forse dai, un nome solo, dai, su, dai, l'uomo ideale, il primo che ti viene in mente, dai, su, ma non so, Brad Pitt, eccolo là, Brad Pitt, Brad Pitt, l'uomo ideale, ha vinto, avete fatto un sondaggio in redazione, anche tu, Luca Dini, hai votato Brad Pitt, come uomo ideale, hai votato anche tu? Sì, devo dire sì, hai votato Brad Pitt, vabbè, ma è abbastanza ovvio, no? L'uomo ideale per Brad Pitt, vabbè. No, io quello che leggerò però sono due articoli, il primo me l'ho già letto quasi tutto, Sasha Grey, ci vuoi dire chi è Sasha Grey, Luca Dini? Non è la donna ideale, diciamo. No, ma chi lo sa, per qualcuno magari sì, Sasha Grey è un'ex pornodiva, diventata scrittrice erotica ovviamente, perché si è riciclata, è un'intervista intelligente, insomma sul diritto anche delle donne di parlare di queste cose senza dover. Mi sembra anche perché ex a 25 anni, Paola Saluzzi, hai capito? Ex pornodiva a 25 anni, ha fatto 225 film, ora scrive lui. Salute che fatica! E dice... Però sì, si vede che insomma il copione era abbastanza semplice. Beh, comunque leggeremo con cura, perché voi siete privilegiati, io Faniti lo prendo adesso, tra poco, quando esco da casa, per cui per me è tutta una sorpresa e non vado apposta sul sito, voglio vivermi questa sorpresa il mercoledì mattina alla radio. Ma cosa vuoi? Ma svegliati alle 5 e vai a comprare volevo chiedere al direttore se dopo le pagine meravigliose, voi sapete che io sono una Wondi tifosa, della nostra Wondi, che sta raccontando in giro per il mondo che cosa voglia dire viaggiare con il cuore grande come ha il cuore lei. Volevo sapere se ci fosse un altro viaggio di Wondi all'interno di Vanity. Ma che fai? Cioè, le domande, ci saranno altre cose, va bene. Cerco, scusa, il privilegio di chiedere il sommario al direttore, ma non ho capito, almeno faccio domande. Vuoi chiedere la copertina della prossima settimana? No, ci sarà Alessandro Milan sulla copertina della prossima settimana. Il nipote ideale. Il nipote ideale. L'intervista a tutte le nonne, 88enni, va bene. Il nipote ideale Alessandro Milan, va bene.

When you're in positions allora, ovviamente ci sono tanti misteri, tante domande legate a questo tema, domande che vogliamo affrontare con Aaron Mains, che saluto con piacere, ritroviamo il corrispondente d'Italia del Wall Street Journal e anche dell'ANSA, freelance dell'ANSA. Buongiorno Aaron, ben ritrovato. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Saluto anche Giulietto Chiesa, che è un ex parlamentare europeo, oggi presiede il laboratorio politico Alternativa. Buongiorno Chiesa, è giornalista ovviamente da decenni. Ecco. Allora, intanto Aaron Mains, la prima domanda che tutto il mondo si chiede, certo non siamo noi a poterlo svelare o a sapere quale sia la risposta, è dove sia finito questo Edward Snowden, che era comparso a Hong Kong dopo essere scomparso dalla Hawaii, dove lavorava per un contractor della CIA, e dopo aver svelato tutto questo al Guardian e al mondo, dove diavolo è adesso? Sì, è un'ottima domanda, credo che se la chiedono in tanti. Esatto, sì, ci sono rumors su dove possa essere, è scomparso da Hong Kong. Come è possibile che una persona del genere possa scomparire, peraltro? Ma Bin Laden è riuscito a scomparire per 10 anni, direi che è possibile. Tra l'altro Edward Snowden probabilmente qualche capacità di merita ce l'abbia. Non credo che sfuggirà all'infinito, prima o poi dovrà affrontare appunto questa situazione. Tra l'altro molti raccontano, allora, è un ex agente della CIA o un attuale agente della Cina? Perché anche questa è un'altra questione che in America viene posta. No, credo che sia semplicemente un ex agente della CIA. Io penso che è una persona che abbia sollevato per questioni di diritto civile, e proprio per la sua, paradossalmente, la sua americaneità che gli ha spinto a rivelare tutto ciò. Ma tutto questo. In America come stanno reagendo? Leggevo proprio oggi anche il Guardian che sta montando una rabbia anche politica. Ci sono al Congresso alcuni senatori, per esempio, che vogliono, come dire, portare Obama a raccontare la verità fino in fondo, cioè che cosa davvero il governo americano sa delle telefonate di tutti noi. Ma non credo che ci sia molto di nascosto in tutto ciò. Il governo americano abbia raccolto della metadata, è importante capire questo. Cioè il governo americano, io sono a New York, faccio una chiamata a qualcuno, anche a Roma, per dire, il governo americano sa, da quel che hanno raccolto da Verizon, sa chi ho chiamato, quando l'ho chiamato, per quanto tempo ho parlato e qual è il numero che ho chiamato e dal quale ho chiamato, ma non sa ciò che ho detto. Questo è se importante. Ho parlato di asparagi o bombe, non... certo. Questo è importante. I metadata vuol dire che si acquisiscono le informazioni dei contatti, ma non si ascolta effettivamente, non c'è questo grande fratello che ascolta anche il contenuto della conversazione. Esatto. E perché esatto. Viene fatto questo? Però ovviamente in nome della sicurezza nazionale? Sì, esatto, questo è vero. È anche vero che ci sono molti che si domandano sull'effettiva utilità di questo. Ci sono alcune persone che sostengono che questo abbia smontato qualche rete terroristica o qualche atto terroristico, ma fino ad ora tutto questo rimane un po' in dubbio, insomma. Questo la vera effettività. Sì, se sia davvero efficace effettivamente sapere che uno chiama magari in zone anche che sono più sotto i riflettori, sotto la lente d'osservazione, però da questi dati o metadati non è che si sappia molto di più. Giulietto Chiesa, lei è stupito di questa vicenda e come definirebbe Ed Snowden, di cui sappiamo poco, sappiamo quello che lui ha detto di se stesso al mondo? Cosa penso? Io non sono stupito, perché queste notizie erano già emerse in altra forma ed erano state quasi subito coperte diversi anni fa, quando venne fuori, mi ricordo di aver letto una serie di servizi sui giornali americani, sul fatto che le grandi compagnie telefoniche erano già state sottoposte ripetutamente a richieste di questo genere. Quindi tutto compreso non mi stupisco affatto, questa è una ripetizione del caso Echelon, che fu perfino discusso al Parlamento europeo appena prima che io diventassi parlamentare, cioè mi pare nel 2002-2003. Quindi siamo di fronte certo all'esplosione pubblica di una documentata rivelazione, che questa volta è incontrovertibile, che esplode in modo enorme. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, dal punto di vista degli fatti che conosciamo, Snowden non è nient'altro che un cittadino americano che, trovandosi di fronte a una tremenda verità, in nome dei diritti e dei principali leggi, delle principali leggi americane di difesa della segretezza delle comunicazioni, le rende note. È un cittadino, considero Snowden un buon cittadino americano che rivela ai suoi concittadini di vivere in un paese che ormai si trova sull'orlo di uno stato di polizia. Però Giulietto Chiesa, spesso si dice non si fa nulla per nulla, noi non sappiamo ovviamente perché abbia fatto questo, se per un alto spirito di senso e di coscienza civile a dire guardate che io ho saputo delle cose lavorando per la CIA che non tollero che possano venire fatte nel mio paese, però si è mostrato al mondo, si è mostrato con la faccia, sa benissimo che ora andrà incontro contro una vita, come dire, d'inferno dal punto di vista personale. Nonostante ciò, lei dice, è spinto secondo lei semplicemente da uno spirito molto civile e civico. Ma il suo stato, il suo gesto è identico a quello che fece Daniel Ellsberg quando rivelò i Pentagon Papers. Io credo che gli Stati Uniti debbano essere grati ad Ellsberg che rivelò che l'intera faccenda della guerra del Vietnam era stata costruita in modo truffaldino e che l'America era stata portata in guerra sulla base di false informazioni che provenivano direttamente dall'amministrazione, cioè da coloro che governavano. Questa è esattamente la stessa situazione. Un cittadino americano viene in possesso di una notizia che dice coloro che mi governano mi stanno costruendo un sistema di controllo che è contro la democrazia, qualunque siano le sue motivazioni. Lui compie un gesto di grande valore democratico, che altro si può dire? Dobbiamo essere grati a persone come queste che ci rivelano come coloro che ci governano, dovunque essi siano, stanno violando le leggi quando stanno violando le leggi. Contro la democrazia? Questa è una domanda che però vorrei girare ad Aaron Mensa e capire e tornare un po' alla domanda principale da cui siamo partiti. È davvero contro la democrazia fare qualcosa in nome di una supposta protezione di tutta una comunità da una minaccia terroristica o dalle minacce terroristiche e per questo fare programmi del genere? Il tuo parere personale, Aaron, ma anche cosa ne pensano il popolo americano? So che ci sono stati fatti anche dei sondaggi a dire siete disposti a essere controllati per essere più sicuri? Beh, non posso che dirti sì. Effettivamente il vero problema qui non è tanto, almeno per me a livello personale, non è tanto che mi raccolgono il metadata sulle mie chiamate nel nome della lotta contro il terrorismo, mi va bene anche. Il vero problema è che l'abbiano nascosto, che l'abbiano messo sotto un sigillo di segreto di Stato, e tant'è che c'erano due senatori che hanno lottato per anni per far uscire questa notizia. Ci è voluto una persona però coinvolto che ha preso effettivamente una decisione molto coraggiosa per svelarlo e adesso pagherà il prezzo qualora lui viene... Ma se venissero svelate queste cose, ovviamente il tra virgolette nemico sarebbe avvantaggiato, prenderebbe delle contromisure. Cioè questi... Ma sì e no, il nemico effettivamente allora saprebbe per certo, se il nemico in questo caso è Al-Qaeda, saprebbe per certo, perché il governo americano avrebbe dichiarato a quel punto sì, raccogliamo i vostri dati, raccogliamo tutte le chiamate. Però cosa cambia in sostanza questo? Cioè, crediamo veramente che Al-Qaeda non pensi già di essere super stracontrollato? Sì. Cioè, il vero problema qui è una specie di tradimento nel confronto del popolo americano. E non è stato schietto e onesto, diretto il governo come dovrebbe essere un governo democratico e uno soprattutto che si vanta di essere il più liberal, il più aperto e il più democratico del mondo. Allora hanno sbagliato, avrebbero dovuto dirlo già prima. Noi tra 5 minuti dopo la pubblicità ripartiremo appunto con queste domande. Intanto Obama la pagherà politicamente e poi l'Europa. Ieri il commissario europeo Reding ha detto all'America, beh, questa cosa ce la dovete spiegare perché noi non vogliamo che abbia ricadute sui cittadini europei che possano essere controllati. E ancora le domande domande appunto dei nostri ascoltatori, 800 24 0024, io rilancio quella da cui siamo partiti, cioè in nome di una lotta al terrorismo siete disposti a cedere cosa e quanto della vostra privacy? Anche il garante in Italia ieri ha detto c'è davvero il rischio che la privacy venga violata dai colossi del web, anche per tutti noi, anche per tutti noi italiani. 24 mattino. Allora, 8 e 35 minuti, 800 24 0024, se volete intervenire in diretta, questo programma Prism. Giulietto Chiesi, io la chiedo direttamente, ma non è più sicuro sapere che se anche è controllato questo serve per vivere in maggiore serenità da possibili rischi terroristici? Non ho nessun dubbio su questo, sul fatto che questa sia una scusa. Non è vero, perché se c'è terrorismo dove c'è stato, intanto tutti i gruppi terroristici sono già sottoposti a controlli e infiltrazioni, si sa da sempre, è sempre accaduto che ogni gruppo terroristico è infiltrato. In secondo luogo, un gruppo terroristico effettivamente efficace sa perfettamente di essere sottoposto a controllo. Questa questione non risolve quindi assolutamente nulla. Questi metadata sono invece un sistema elaborato di sorveglianza statistica che coinvolge milioni di persone, cioè che permette di controllare tutti, e questa è la cosa. Ma controllare tutti per quale motivo? Cioè, quale sarebbe secondo lei il recondito motivo per sapere che uno chiama un amico a New York o a Dubai o in Giappone? Ma il recondito motivo è che questo serve per controllare molte più altre cose che non le attività terroristiche. Per esempio? Parliamoci chiaro. Ma per esempio questo serve per controllare tutti i movimenti di capitali, questo serve per controllare i comportamenti dei leader politici o di coloro che sono vicini ai leader politici. Non nascondiamoci dietro un dito. Se io sono in grado di sapere quello che fa un dato personaggio che ha influenza sulla vita di un altro paese, io dispongo di segreti economici e politici di grande portata. Ma per questo però devo controllare miliardi di persone, cioè mettere sotto controllo tutti? L'ordine riguarda, se è il caso di Verizon, sono 98 milioni di utenti, voglio dire, quindi non è che possono, non è che è targeted, non è che è su una persona, su due persone, su tre persone. No, sì, ho capito perfettamente, ma bisogna capire il funzionamento dei metadata. La National Security Agency non è composta di stupidi che perdono tempo, si tratta di gente che sa perfettamente quali sono i vantaggi di cui dispone. Allora, se io ho un sistema di segnalazione, sono in grado di percepire automaticamente che cosa devo andare a cercare, poi dopo vado a vedere esattamente che cosa è stato detto, ma il segnale mi arriva il segnale che c'è una anomalia da qualche parte che mi interessa. Sì. Io ho dato, diciamo così, ho un sistema di software, diciamo così, che mi avvisa che ci sono delle cose che sono che riguardano una determinata serie di persone che sono di particolare interesse. Ma cosa c'è? Guarda, io ripeto la domanda: cosa c'è di male? Cioè, nel senso, lo so che cosa c'è di male messa così può sembrare brutale. Nel momento in cui si combatte una guerra, che è anche una guerra tecnologica, nel momento in cui si combatte una guerra di informazioni, legata alle informazioni. Ma la questione fondamentale è questa: che cos'è tutta questa storia della guerra contro il terrorismo? Il problema fondamentale è che la storia della guerra contro il terrorismo è piena di misteri. Se tutto fosse così chiaro, cioè se l'11 di settembre fosse stato un atto terroristico e basta, non ci sarebbero una serie di punti interrogativi. Io ho lavorato in tutti questi anni per dimostrare che l'11 settembre è una storia molto inquinata, per essere soft nella mia formulazione. Sì, sì, sì. La storia è molto inquinata. Quando la signora Hillary Clinton dichiara, per esempio, in una hearings trasmessa dalla televisione, che alla cosiddetta Al-Qaeda l'abbiamo creata noi e abbiamo lasciato fare, io sono molto preoccupato. La signora Hillary Clinton è stata segretaria di Stato del governo degli Stati Uniti. Se lei mi dice questo, io ho diritto di dubitare di tutto quello che viene subito dopo. Questo è il punto. Questo è il punto, Giulietto Chiesa. Sappiamo anche le sue posizioni, è per quello che l'abbiamo chiamata. Aaron Mainz, è un po' questa la questione, cioè che c'è sempre il dubbio che, diciamo, l'origine di quello che ha separato un po' il mondo prima e dopo, cioè l'11 settembre 2001, sia un qualcosa per molte persone nel mondo lo pensano, un qualcosa di poco chiaro. Da lì si è generato tutta una serie di provvedimenti ugualmente poco chiari. Aaron. Allora, anzitutto, se scendiamo nella battaglia del dietrologismo e della fantasia, io non ci sto molto alla lotta perché mi sembra alquanto assurdo, tant'è che abitavo a New York e il primo aereo mi è passato all'11 settembre, intendo, il primo aereo mi è passato sopra la testa. Non adesso cominciare a sostenere che l'11 settembre fu montato, creato, costruito o qualche altro cavolata mi lascia, diciamo, alquanto perplesso. Che è una teoria però molto, come sai, molto diffusa. Sì, ma certo, ma ci sono mille teorie che girano per il web. Ho un collega giornalista che diceva una volta che il bello del web è che puoi trovare tutto, ed è anche il brutto. In fondo uno deve anche saper ragionevolmente gestire l'informazione che il web offre. Non trovo tuttavia nel raccoglimento della metadata questa grandissima minaccia. La mia grandissima minaccia lo vedo nel momento in cui il governo cerca di nascondere il fatto che li raccoglie. Ma perché, a questo punto lo chiedo anche a te, secondo te perché è stato fatto in così grande segreto? Se davvero è un qualcosa che certo è lesiva della privacy, nel senso che si vengono a sapere delle cose delle persone, ma non è una grande minaccia? Ma io penso che comunque il governo abbia creduto che ci sarebbe stata una reazione negativa da parte del popolo americano, cosa che poi ancora non si è verificato in tutto, cioè la grande reazione del popolo americano fino ad ora è stata di relativa indifferenza, che tutto si copre con questo famoso sto facendo una lotta al terrorismo e allora faccia quel che vuole. Questo non è corretto, effettivamente per una democrazia di funzionare bene deve essere alla luce del sole, deve essere discusso, ci devono essere dibattiti esattamente come quello che stiamo facendo ora. Questo assolutamente. Io sentirei qualche ascoltatore. Renzo da Ancona, buongiorno. Buongiorno Milan. Dica. Innanzitutto complimenti come al solito, sì, per la trasmissione, in questo caso anche per la celerità con cui l'ha messa in piedi, visto che la notizia è... Beh, insomma, facciamo questo, che dovevo aspettare una settimana? Dica, Renzo. No, semplicemente io credo che questo controllo, a questo punto abbastanza evidente, degli Stati Uniti sia anche, il mezzo attraverso il quale, per esempio, nel giro una manciata di giorni hanno scoperto gli attentatori di Boston, credo, no? Sì. Cioè io sono rimasto estremamente stupito dalla rapidità con cui sono arrivati a scovare i presunti, o credo beh, abbastanza certi, conclamati attentatori, visto anche le loro reazioni, forse dovremmo farci questa domanda. Insomma, lei dice quindi, visto che lì è stata efficace. Per la verità, io, guardi Renzo, leggevo sul Guardian, che faceva appunto tutto un rapporto su questo programma, e vorrei qui anche che Aaron Mance mi confermasse oppure mi smentisse, c'è stato un grande ordine segreto, secondo questo programma, di controllare i 98,9 milioni di consumatori, diciamo di utenti di Verizon, proprio dopo, nei giorni immediatamente dopo all'attentato di Boston. È così, leggevo sul Guardian. Aaron. Non ho letto questo, sì. Non posso né confermare né smentire. Cioè il 25 aprile, almeno io ce l'ho, ecco qui l'ho trovato, Verizon. Cioè, da qui si è scoperto ovviamente che c'era un sistema, quello Prism, che era in vigore da prima, ma anche perché dopo, dal 25 aprile, dopo i giorni della maratona di Boston, c'è stato un ulteriore diciamo ordine segreto a Verizon di fornire i dati, i metadata dei 98 milioni di persone che utilizzano appunto quella compagnia telefonica. Sì, sicuramente faceva parte del loro tentativo, sì, di appunto di arrivare ai... Esatto, di arrivare. E dice l'ascoltatore, forse allora questo non è, Giulietto Chiesa, un buon motivo per, dice l'ascoltatore, visto quello che è successo anche a Boston, per controllare tutto? Beh, visto quello quello che è successo anche a Boston, dovremmo avere ancora più dubbi su queste decisioni, molti di più, perché Boston rivela che per esempio i due presunti attentatori di Boston erano già sotto controllo dell'FBI e della CIA da 2 anni addirittura. Quindi in realtà i due personaggi sono stati trovati subito perché erano già stati controllati prima da 2 anni. Ma non è che si può prevedere tutte le azioni, uno magari è sotto controllo, ma finché non passa, il limite e... cosa dovevamo pensare? Il più grande dei apposta. Due era partito, ma sapevano tutto, sapevano che era andato in Cecenia, anzi sapevano che era tornato in Tagliestano. Mi scusi Chiesa, questo cosa vorrebbe dire? Dobbiamo supporre allora, se seguo questo filo, che l'abbiano fatto agire apposta. Io non faccio supposizioni, dico semplicemente, siccome siamo in tema, si sta dicendo, servono a qualcosa questi controlli per impedire attentati terroristici o no? La questione di Boston rivela esattamente il contrario. Ma chissà quanti, due persone già erano sotto controllo e hanno fatto, supponiamo, l'attentato terroristico. Va bene, ma chissà quanti chissà quanti attentati abbiamo scampato e noi non lo sappiamo, per esempio. Magari, non lo so, grazie a questi controlli, ed è bene che non si dica. Magari... Le leggi. Ma allora la domanda si sposta così. Che senso ha approvare il 4° e 5° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti se non servono a tutelare la libertà dei cittadini? Perché se il ragionamento è questo, allora chiudiamo ogni Costituzione e stabiliamo che qualcuno che ha in mano il potere decide lui quali sono i criteri della sicurezza, li applica come gli pare e la Costituzione la buttiamo nel cestino. Vale per l'Italia come per gli Stati Uniti. Io ritorno a citare quello che diceva un senatore americano, il senatore Frank Church, a proposito della NSA, diceva: questa agenzia ha la capacità di instaurare in America una tirannia totale e dobbiamo assicurarci che questa agenzia e tutte quelle dotate di questa tecnologia operino all'interno della legge. Ora, questa è una chiarissima dichiarazione che viene da un signore che è stato eletto al Senato degli Stati Uniti, che conosce le cose e dice: questa gente non è controllata da nessuno. La questione fondamentale è che tutto ciò è stato fatto segretamente. Allora, uno può dire, mi va bene così, è uno che rinuncia alla propria libertà e alla propria capacità di agire come individuo libero e la getta, la consegna nelle mani di coloro che governano. Questo è una rinuncia di uno schiavo, questa è la mia opinione. Penso che gli americani non devono essere degli schiavi di questo. Così come penso che gli italiani non devono essere degli schiavi. Allora, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi ripartiamo con Aaron Mensa, ancora ascoltatori, nell'ultima parte di 24 Mattino. Eccoci qui, le 8:48 minuti, sentirei Luca da Torino. Buongiorno Luca. Sì, buongiorno. Dica. Ma io avevo questa perplessità. Mi sembra strano che faccia così scandalo il fatto che un governo sostanzialmente tenga sotto traccia alcune informazioni, quando noi comunemente lo facciamo già tutti i giorni nei confronti degli operatori web. Basta vedere che cosa mi scrivo con un mio amico su Google, sulla mail di Google, e guarda caso tutte le pubblicità contorno sono attinenti a quell'argomento. Sì. Quindi francamente la domanda che mi farei semmai è, non è tanto... Non crede che sia un po' diverso sapere le sue mail, a chi vanno, a chi chiama lei, non tanto il contenuto della telefonata, ma chi chiama, per quanti secondi, quante volte... Di fatto queste informazioni già sono, basta che uno si legga l'agreement che ogni volta sottoscrive con Google, piuttosto che anche solo l'attivazione dell'iPhone, sono 400 pagine di agreement che ti dicono che i tuoi dati verranno condivisi. Però Luca, un conto è, che ne so, per poi un'indagine di polizia, la polizia può risalire alle sue telefonate, e quindi è chiaro, tutto lascia una traccia, ma qui in questo programma tutto veniva controllato, centralizzato, mandato alla NSA, cioè la National Security Agency, che poteva fare di questi dati tutte le indagini che voleva, cioè a prescindere, anche se lei è una persona totalmente onesta. Ecco. Ma infatti, semmai la mia domanda è, qual è la conseguenza di questo controllo? Quindi nel momento in cui uno mi dice che questo avverrà con una certa finalità e questo controllo porterà a determinati risultati, allora è corretto. Quindi sono d'accordo nel dire, non è stato giusto nascondere questa informazione, sarebbe stato più corretto dirla in maniera pubblica che c'era questo programma e tutti saremmo stati più sereni, okay, ma sì. nel merito non credo ci sarebbero. Insomma, la questione pubblica, come diceva prima Aaron Mays, Aaron dice Giulietto Chiesa che cedere tutto il pacchetto della propria libertà alla NSA, cioè la National Security Agency, rende schiavi. È davvero così? Tu da americano ti senti schiavo? Incatenato, sì, incatenato al mio iPad sono. No, vabbè. No, ma lo trovo una provocazione. Penso semplicemente che penso questo. Non ho problemi che il governo americano mi controlla la chiamata a Roma per sapere come sta mio cognato, o la chiamata all'Estée Lunga per sapere se le fragole sono fresche. Questo non mi dà problemi a livello di metadata, cioè che sa che ho chiamato da questo numero e sa chi ha chiamato quest'altro numero. Mi desta problemi nel momento in cui il governo americano faccia di tutto per nascondermelo, perché non lo deve fare. Comunque, come diceva il signore che ha chiamato da Torino prima, ormai questi dati, noi viviamo in un mondo in cui la privacy, come lo intendiamo o lo intendevamo anche 20 anni fa, non esiste più, quindi inutile stare qui a dire difendiamolo, dobbiamo assolutamente ottenerlo, non c'è più così. Allora diventa molto importante, anzi più importante che mai, che queste informazioni, che la raccolta di queste informazioni o ciò che si fa con queste informazioni vengono alla luce e viene fatto alla luce del sole. Su questo Giulietto Chiesa, insomma, Aaron Mays, che è americano, dice a me non importa nulla, per carità, è la sua opinione personale, ma dice ma che schiavo, insomma, schiavo di che cosa? Non è che, certo. Non è che i suoi comportamenti abituali vengono mutuati o modificati in base al fatto di sapere che c'è uno che sa che ha chiamato da qualche parte. Ma questo presuppone una grande ingenuità politica. Noi viviamo in un mondo in cui ci sono lotte asperrime per il potere e sappiamo benissimo che coloro che hanno il potere hanno violato ripetutamente le regole della democrazia. Facevo non per caso l'esempio e dei Pentagon Papers. Uno può dire io chi se ne frega, che mi importa se stanno controllando le mie telefonate, io sono una persona normale che non dà fastidio a nessuno. Domanda: come mai gli Stati Uniti sono stati portati in guerra nel Vietnam e sono stati uccisi per questa ragione oltre 50.000 cittadini americani, e sono stati uccisi, secondo diverse stime, più di 1,5 milioni di cittadini vietnamiti, dal fatto che un gruppo di persone che erano un gruppo di delinquenti, di criminali, aveva ritenuto utile e opportuno. Questa però è un'altra cosa. Questa però è la stessa identica, è la stessa identica cosa. Presupporre che qualcuno si sta controllando in nome di quelle cose che ha deciso lui, significa mettere il proprio destino nelle mani di persone. Ma capito, che ma non sono necessariamente... Però allora, un conto è andare in guerra o non andare in guerra, e questo è, magari se vuole facciamo un'altra trasmissione. Ma non stiamo parlando della guerra al terrorismo, scusi. Sì, stiamo certo, che però non è una cosa guerra. Finta. Lei dice una cosa in base a delle norme di sicurezza che hanno deciso loro, ma non è una cosa finta la guerra al terrorismo. Non so se devo dare del sì, tuo o meno, c'è del ma tuo, è quello distante. Vogliamo lasciare, diciamo, perdere il Vietnam e pigliamo invece l'Iraq. Noi avevamo al governo degli Stati Uniti un gruppo di criminali, perché la parola giusta è questa, che ha portato gli Stati Uniti in guerra in Iraq, mentendo al popolo americano. Questa gente è la stessa di cui stiamo parlando ora, perché sono gli stessi controllori di queste informazioni. Gli americani sono andati in Iraq guidati da un gruppo di criminali che hanno violato tutte le leggi americane e internazionali, perché disponevano di un potere sterminato di mistificazione. La paura è che sia la stessa cosa. No, non è che la voglio sfumare, ma devo chiudere proprio tra 10 secondi. Tema, se volete, di un approfondimento di un'altra trasmissione, che dobbiamo dire, il tempo è sempre questo. Ringrazio Giulietto Chiesa, ringrazio Aaron Mays, il Wall Street Journal e l'Ansa, e che dire, ci riascoltate tutto su radio24.it e ci ritroviamo domattina alle 6:30. Sì.